It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il livello di panico è sempre altissimo e le truppe del colonnello Ungiute la fanno da padroni, Kappa e Drago devono trovare il modo di salvare il pollo in sbattimento dall'ira di Puppo, lo spacciatore di droga. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago, ma il tuo telefono è acceso? Sì, sì. Anche il mio. Ma il pollo non si è più fatto sentire. Mi preoccuperei forse. Cavoli però... suoi. Sì, dai, sì. Sono cavoli si vede suoi. Che poi Pupo lo sta torturando per farsi dire dove tiene nascosta la vera paroxetina. È veramente, è veramente un dilettante. Sì, perché sì. Cercare di fregare un pusher con pillole di bicarbonato buone solo per migliorare la digestione, bisogna proprio essere dilettanti. E chi si fa corrompere dal potere costituito non merita altro che di essere fregato da quello stesso potere. Ah, ecco, eccolo, è lui. Pronto? Kappa, sono io, sono il polo in sbattimento. Immagino che tu sia in sbattimento. Vorrei vedere te. Però intanto comunque sembra che le cose si stiano mettendo un po' meglio. Perché Pupo si sta trovando bene con il bicarbonato. Aspetta che lo dico a Drago, anzi accendo l'altoparlante. Pupo si sta trovando bene con il bicarbonato. Ah, che bello. Perché sapete che Pupo è un po' malandato, no? I due infarti, l'ulcera, la gastrite. E beh, il bicarbonato l'ha fatto guarire. Aveva un bruciore di stomaco che lo faceva impazzire e adesso è passato. Vero Pupo? Vabbè, Polo, tu chiami in cerca d'aiuto, ma noi te l'abbiamo detto, non possiamo fare niente. Ma no. Anzi, sì, infatti. Anzi, guarda, te lo dice Drago. Ma no. Magari... c'è un Ungiute qui, ma tu non hai idea di quello che sta succedendo. Voi siete amici, no? Amici, sì, vabbè. Io avevo fiducia in voi due. Che fiducia? Ma se sì, tu non hai mai avuto fiducia in nessuno. Aiuto, amici, detto. Dai! Chiamate la polizia, sì, no? La polizia, tu credi che qua dentro ci sia la polizia, adesso, qui con i mercenari belgi? Guarda che la polizia è tutta da un'altra parte, impegnata a fare cose assolutamente più importanti. You are the cattle and we are the keepers. Vuoi buttarti? Buttati! È una bellissima notte di primavera. Potrei stare con tutti gli altri nel bar dietro la questura a farmi una birra e invece mi chiamano qui per convincerti che la vita è bella. Ma cos'è? Chi sono io per convincerti di una cosa del genere? Faccio lo sbirro, mica il filosofo. Guarda, sai che ti dico? Che una volta tanto mi piacerebbe vedere uno che lo fa sul serio. Che poi è anche una questione di decenza. Guarda, guarda giù. Siamo tutti qui con dei megafoni, teloni, lampeggianti. Roba che sembra il finale della Signora in Rosso, ma rifatto male e con meno soldi. E ogni sera tossici coi vetri di bottiglia nelle vene perché non riescono a metterci nient'altro. Ragazzini che agitano il coltello del polpettone come una bandierina per paura di essere bocciati. No, troppo comodo così. È troppo comodo far saltare in aria la scacchiera perché la vita ti sta dando scacco matto. Tanto, se arriviamo noi è perché nessuno si ammazza, né si è mai voluto ammazzare. Guarda, più che aspiranti suicidi, sai cosa siete voi? Siete attori mancati. Gente che sposta l'attenzione del problema travestendosi da Giulietta, però senza quel pudore, quella serietà di una bella boccetta di veleno nello stomaco. Oh, tu per esempio, tu che mi hai fatto venire fin qui stanotte e sei lì e urli che vuoi Gianni, portatemi Gianni. Ma perché non dai un senso vero a tutto questo? Urla qualcosa tipo viva il trotskismo oppure potere alla vagina e poi ti sfracelli. Dai, è una questione di buon gusto, di rispetto per il lavoro altrui. Comunque sta tranquilla che Gianni lo abbiamo trovato, sta arrivando. Saremo anche così carini da non dirti che era a letto con una più giovane e più magra di te. Se vuole te lo dice a lui, così magari te lo trascini giù dal cornicione con te. E i miei straordinari una volta tanto ci avranno avuto un senso. Oh, oh, oh, oh, la fabbrica Ma allora, K, ci va o no la S? Perché secondo me decidere. No, scusa, perché on vend la drogue. On vend la drogue. Vend senza S. Se ci fosse la S sarebbe la seconda singolare. Scusa, invece è la terza. Quindi on vend. Ah, ok, sì. Però non si usa il partitivo. Il partitivo. Sì, on vend de la drogue. Forse sì, eh. Io il francese l'ho studiato poco e male, però sta facendo del partitivo, mi ricordo che era importante. Ma senti, ma se mettessimo un fait du commerce de drogue, così non abbiamo dubbi, è giusto? Sì, però mi suona un po' troppo artificioso. Vabbè, ma Drago, ma i soldati di Ngiute sono belgi, sono congolesi che parlano francese come i congolesi, sì, quindi capire mi capisco. Mi sì. Quanto male allora scrivere, che ne so, drogue, solo drogue, bello grosso, sì. No? Come un'icona, anzi... Magari poi ci disegniamo sotto anche uno spinello, una siringa, una banconota arrotolata, così capiscono bene. Sì, drogue. Mi sembra un'ottima idea. Drog, scritto con il font di Vogue. Sì. Che ne dici? Un bel cartello con la freccia che indica la casa di Pupo. Drog. Drog. Funzionerà di sicuro. L'importante è che il Polo in sbattimento sia così sveglio da capire al volo la situazione, perché se sta lì a fare il bamba, mentre i mercenari arrivano lì all'assalto della casa di Pupo in cerca di droga, anzi di drog, finisce male anche lui. Drago? Qui? Quelle ore est-il? C'est minuit. Ah bon alors? Oh, on dit il est minuit. Mezzanotte è il punto di non ritorno. Quel che è fatto, ora serve un nuovo giorno per ciascuno di noi. Pollastri! Pollo in sbattimento! Che bello rivederti! Voi ragazzi siete stati grandi, Senza di voi non ne sarei uscito vivo. Vabbè, racconta un po' cosa è successo però. Sì, allora, io ero lì che stavo cercando di convincere Pupo a stare calmo, no? A non agitarsi, sennò lì viene un altro infarto. Vedi, perché tanto per il suo lui riempiva di sberle, ma insomma... No, lì aveva smesso e lo stavo tranquillizzando per quello, no? A un certo punto, dalla finestra e dal tetto, sono piombati dietro un mucchio di soldati, bianchi e neri, che parlavano francese. Che stavano lì a parlare fra di loro, stavano lì a dire drog, drog. Chissà come mai, E poi? Poi niente, hanno preso Pupo e la sua compagna e se li sono mangiati. Non li hanno neanche spennati. Ma come se li sono mangiati? Ma davanti a te, così? E tu cosa hai fatto? Io sono scappato, Lì nessuno mi ha visto, perché lì stavano a guardare soltanto la droga e la gallinella di Pupo. Allora Pupo si è incazzato, è geloso, si è messo in mezzo e hanno mangiato anche lui. Ma è tristissimo, come fai a essere così allegro, sorridente, uè ragazzi, uè ragazzi. Vabbè, ma io ho passato un'avventura brutta, Vabbè, lo sappiamo. Intanto adesso i soldati sono lì e anche loro stanno digerendo, molto bene. Per digerire Pupo? Sì, perché si sono buttati giù tutte le pastiglie di bicarbonato, perché pensavano che fosse chissà che roba, drog. E adesso stanno digerendo Pupo e la sua compagna. Ma tu qualche beccata l'hai data? Certo che l'ho data le beccate, La prima l'ho data a Pupo, poi la sua compagna. Ma perché la sua compagna? Ma tanto lei è abituata. Ma poverina, ma in quella situazione lì potevi salvarla, gli hai dato una beccata. Ho capito, io ero stressato, ho dato una beccata a Pupo, poi lei lì che urlava, l'ho dato una beccata anche lei. Sapere che poi fa casino e poi magari i drog, i soldati se la prendevano con me. Ho capito. E poi? E i soldati? Poi ho anche tirato qualche beccata a caso, ai soldati. Ci credo poco, però. E poi sono scappato come un razzo. Ah, vabbè. Perché io il becco ce l'ho, e lo uso. E poi comunque è sempre meglio scappare. Vabbè, sì. Scappare è sempre la cosa migliore. Che cosa succederà adesso? Come si normalizzerà la situazione con le truppe di Ungiute nella fabbrica di polli? Si prospettano forse novità sostanziali sul piano narrativo per dare una svolta a tutta la vicenda? Lo saprete per certo dopo che anche questo weekend arriverà e passerà come tutti i weekend precedenti. Solo allora potrete sintonizzarvi a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo esagerato allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago. Con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Luca Gemma, Luca Monarca, Alberto Onofrietti. La fabbrica di polli è Rai.it, barlumen.com. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce. Barlumen.